Lassù qualcosa mi ama, di Alfred Bester. Buonasera. Beh, potete chiamarmi Stretch, ma il mio ruolo in tutta questa storia risulterà chiaro dopo. Non è di me che voglio parlarvi adesso, ma di quei tre matti. Due erano esseri umani e io potevo parlare con loro perché conosco le lingue. Beh, conosco le lingue binarie, voglio dire, ma anche quelle decimali. Comunque, lui si chiamava Jack Madigan. Era a capo della sezione di esobiologia al centro di volo spaziale Goddard, dove si spera di studiare forme di vita extraterrestri, se mai si riuscirà a metterci sopra le mani. Lei era Florinda Pott, ingegnere meccanico all'Università di Sheffield, ma impiegata anche lei a Goddard. Erano un po' squinternati tutti e due, anzi, ad essere sinceri, veramente scoppiati. Per farvene un'idea, pensate che lui una volta programmò uno degli IBM del centro con arance, limoni, prugne e così via. Poi ci giocò contro a slot machine e perse anche la camicia. Quanto a lei, quando lavorava a White Sands, riscaldava il carburante solido dei razzi con una termocoperta, finché una di queste termocoperte prese fuoco e fece saltare tutto. E poi c'era il loro figlio. Il loro figlio era S-333. Alla NASA i satelliti scientifici sono tutti contrassegnati da una S, ma poi quando li hanno lanciati gli danno anche una sigla per il pubblico. S-333 doveva diventare OBO, cioè Osservatorio Biologico Orbitante. Io sono convinto che il direttore affidò questo progetto a quei due matti perché nessuno che avesse un po' di buon senso l'avrebbe voluto. Era una cosa abbastanza complicata. Era un satellite pieno di contenitori sperimentali per vari usi. Questa era la parte di cui si occupava Madigan come biologo. C'era un sistema di aspirazione che avrebbe depositato ogni tipo di spora vagante per lo spazio su un terreno di cultura all'interno del satellite. Poi c'erano una quantità di altri piccoli progetti, ognuno commissionato da una università diversa, tutti dentro OBO. C'erano licheni, muffe, alghe, cellule nervose di molluschi. Pensate, l'Università del Michigan aveva addirittura fatto mettere dentro un terrario con una carota e l'Università di Pennsylvania aveva fatto montare una boma retrattile che sarebbe uscita al momento opportuno per studiare gli effetti del campo magnetico della Terra sui batteri del ferro. Florinda era direttrice del progetto e questo non facilitava certo le cose, in nessun senso. Florinda doveva cancellare l'onta di White Sands, quella delle termocoperte, mi capite? E quindi aveva esasperato il suo perfezionismo, aveva creato tensioni con tutti i suoi collaboratori, ritardi del progetto, aumenti imprevisti di costi. Ma queste non erano le uniche difficoltà. Quando giunsero a Cape Kennedy per il lancio, alla metà di dicembre, scoprirono che la trasmittente del satellite produceva rumori di cinguettio e schiamazzi quando l'antenna veniva fatta rientrare in posizione di lancio. Gli schiamazzi naturalmente avrebbero potuto essere raccolti dal ricevitore del satellite e quindi attivare un comando di distruzione. Non c'è altro da fare che lanciarlo col trasmettitore spento e attivarlo dopo, quando è già nello spazio. No, senti, non è possibile. Non puoi lanciare un volatile muto, non sapremo neppure dove cercarlo, immaginate. La stazione di controllo di Johannesburg può trovarlo al primo passaggio e mandarci la posizione. Abbiamo eccellenti comunicazioni con Joburg. E se loro non ce la fanno, eh? Beh, almeno i russi lo sapranno. Eh sì, che risarci, lo vengono a dire, figurati. Ma cosa vuoi che ci faccia? Che annulli l'intera missione? O si lancia con la radio spenta? O si rinuncia? Questo è il mio primo satellite e sai che cosa mi ha insegnato? Che in ogni oggetto spaziale c'è sempre una componente garantita per dare solo noi e solo gli scienziati. Poi le donne, ma che roba. Già, e che cosa avete da spartire voi con la scienza? Ma ah, mistica, ecco, mistica, tutto quello che sapete fare è mistica. Il lancio avvenne a gennaio, senza termocoperte questa volta, ma anche senza radio funzionante. Ci volle un po' per riuscire a far funzionare il trasmettitore, ma quando ci riuscirono l'entusiasmo fu incontenibile. Ce l'abbiamo fatta, Flori, abbiamo un volatile vivo! Abbiamo una bambola viva! C'è un tale coinvolgimento emotivo col vostro primo satellite che poi non siete più la stessa persona. Il primo satellite è un po' come la prima reazione amorosa. Che bello, Dio. Ti amo, Jack Mario. Anch'io, Flori. Ma forse non amavano altro che il loro pargolo. Giunti all'ottava orbita, scoprirono che il loro pargolo era una peste. Pronto? Sì, ciao John. No, non stavo dormendo. Che c'è? Che cosa? No, non preoccuparti, Jack l'ho avverto io. Veniamo subito. Che cos'è successo? Era Joe Larry della stazione di controllo. Vesti, obo nei guai. Oh, Madonna, che cosa ha combinato? Sta facendo piroette su nel cielo come un ballerino. Dai che dobbiamo andare a Goddard immediatamente. Ehi, ciao John. Ciao. Ciao, ciao. Per fortuna siete arrivati. Avete visto che casino? No, certo, se non ci vai a vedere tu. Come facciamo? Ecco, queste qui sono le registrazioni dei primi 8 giri. Guarda qua, nella colonna dei dati di comportamento, hai visto? Accidenti, ecco la rotazione, fa più di un giro al minuto. Altro che un giro ogni 12 secondi, capito? Ma perché mai? È chiaro come il sole, guarda qua, è il BOMA dell'Università di Pennsylvania che non si è alzata al comando, sta dentro in posizione di lancio, l'interruttore, ma si sarà incastrato. Ah, ho capito tutto. Quindi il sensore che doveva mantenerlo stabilizzato rispetto alla Terra è vicino alla BOMA, si è fissato su di essa e ora la segue, d'accordo? Quindi questo imbecille continua a girare su se stesso. E i dati che trasmette non hanno quindi alcun valore. E le batterie solari dove le metti? Ah, se l'impianto quelle. Non sta sempre rivolto verso il sole, si scaricheranno in 448. Sì. Accidenti, madonna. Bisognerà far alzare quella boma, ma come facciamo? Un calcione, avrebbe bisogno di un bel calcione. Ma come diavolo facciamo a salire lassù a prenderla a calci? Senti, Flori, è già da una settimana che il suo fare giri e non abbiamo assolutamente risolto niente. Questo non è vero del tutto, Jack Madigan. E forse il problema l'hai risolto proprio tu. Beh, ovvio, ricordi sì. Quello che hai detto la prima sera sul prendere a calci il nostro padre? No, come vorrei farlo? Ecco, ora penso di sapere come fa. Ah, davvero? E come? Dunque, stai sentito. Sì. Se funziona, la chiamiamo operazione calcio rapido. È il minimo. I 28 volt della batteria non sono riusciti a far funzionare l'interruttore, giusto? Ma supponiamo di raddoppiare l'energia. Oh, bellissimo, eccezionale, perfetto, meraviglioso. Ah sì, ma come facciamo? L'apparecchiatura solare fa un giro ogni 12 secondi. Sì. Quando è di fronte al sole, i pannelli inviano 50 volt per ricaricare la batteria. Esatto. Quando è dall'altra parte, niente. Ah, stupendo. Sì, ma dimentichi che quella carcassa si trova esattamente di fronte al sole solo per un secondo su 12. E questo non basta a tenere in vita le batterie, no? Se no sarebbe stato troppo facile. Non basta per le batterie, ma basta per dare un bel calcio a Obo. Ecco. Se in quel preciso istante noi escludiamo le batterie e mandiamo i 50 volt tutti dentro al satellite, non potrebbe essere il calcio che ci vuole per far alzare l'antenna? Forse funzionerebbe. Naturalmente, vabbè, è un po' un azzardo. Certo, sì, un po' un azzardo. Rischiamo solamente di far saltare tutti i contenitori sperimentali. Vabbè, ma tanto al punto in cui siamo, puoi escludere le batterie? Sì, ho già qui tutti i circuiti. E puoi anche scegliere il momento giusto. La rilevazione mi ha fornito i dati della rotazione al decimo di secondo. Possiamo scegliere qualunque voltaggio, da 1 a 50. Allora, sei d'accordo? Oh, andiamo. Guarda, prima soffrivo un po' di inappetenza, ma adesso mi è venuta fame di colpo. Andiamo fuori a cena. Volt non bastarono, neppure 25, non bastarono 35 e non bastarono 40, ma quando mandarono un bel calcio di 50 volt nel sedere del satellite, la sinusoide dell'oscilloscopio si appiattì. Evviva, ce l'abbiamo fatta! È uscita, Flori, quella fottuta bomba è uscita, siamo a cavallo! Andarono in giro per tutta Goddard urlando e schiamazzando, poi telegrafarono a tutti gli sperimentatori che stavano per attivare i contenitori sperimentali, poi andarono a casa di Florinda e festeggiarono di nuovo. Ma i guai non erano finiti. Quando fecero la prima riunione di sperimentatori per verificare il funzionamento e fare i programmi per il futuro, saltò fuori che tutti stavano ricevendo dei numeri che non c'entravano niente con gli esperimenti programmati. Ovviamente le trasmissioni di Obo erano tutte sfilze di numeri, numeri scritti in codice binario, però la stampante li traduceva automaticamente in struttura decimale. Ma i vari ricercatori sapevano quali erano i numeri sensati e quali no. Alcuni, ad esempio, ricevevano dei 2, altri dei 15. La California riceveva addirittura delle serie di 15-2-15. Florinda e Madigan passarono un sabato intero a cercare di capirci qualcosa. Niente. Lunedì Florinda entrò nell'ufficio di Madigan con un'aria stravolta. Senti, Jack, se ti dico una cosa non penserai che sono matta? Beh, non lo so, prova a dirmi. Penso che il nostro pargolo sia un mostro. Ah, ricominciamo da capo allora. Mi è venuto in mente improvvisamente ieri sera, se i numeri stessero al posto di lettere per l'alfabeto, che cosa significherebbe 15, 2, 15? Dunque... Oh, dai, fai un po' i conti. Oh, vabbè, allora 2 sarebbe B, 15 sarebbe, dunque, allora, A, B, C, D, E, L, M, O. O sarebbe O. Allora... Quindici, due, quindici, cosa sarebbe? Obo, obo, obo, obo, ehi, senti, ma guarda che non è possibile, sai. Certo, sarebbe una coincidenza. Se solo voi fessi di scienziati, deste tutti i dati che avete, gli sperimentatori non ci hanno dato un resoconto completo dei numeri fuori posto nelle trasmissioni. Stamattina sono andata a cercarmeli io. Quelli del California, per esempio, prima del 15, 2, 15, ricevevano 19, 15, 14, 15. Oh, ho capito il giochino. Dunque, 19 è S e 14 è dunque, N, ovvio. Sono. E che cosa vuol dire sono? Sono obo. No, senti, ma non può essere. Hai qui tutte le registrazioni. Sì, guarda tu, guarda, se non ci credi. Ecco, vedi, all'inizio c'è qualche O. Poi c'è obo, obo, obo, e ora io sono obo, io sono obo. Li vedi che ci sono? Eh sì che li vedo, vabbè, ma tu cosa pensi, che quel bastardo sia vivo? E tu? Beh, senti, non lo so. Certo che lassù c'è una mezza tonnellata di cervello elettronico più materiale organico di tutti i tipi, cioè sono lieviti, batteri, enzimi, cellule nervose, le maledette carote del Michigan. Oh Madonna Santa, una carota pensante! Già, e in più qualunque tipo di spora che il mio marchingegno risucchi dallo spazio. E tutto questo casino noi l'abbiamo sferzato con 50 volt. Boh, chi può dire che cosa è successo? Ma... In fondo Urey e Miller hanno creato degli aminoacidi con delle scariche elettriche, tutto sommato, ma questa qui è la base della vita. Non ci resta che spulciare tutte le registrazioni e vedere se troviamo dell'altro. Ormai non c'è più dubbio, manda proprio dei messaggi. Ecco, ne ho trascritto qualcuno. Ah sì, vediamo. Oh, qualunque esame di crescita nello spazio è senza senso a meno che non sia messo in correlazione con l'effetto di Coriolis. Questo è il commento di Obo sull'esperimento del Michigan. Già, va, neanche tanto fuori posto, anzi, guarda. Guarda, quest'altro invece se l'ho proprio adatto per te. Qualunque indagine di vita extraterrestre è senza senso a meno che non si sia fatta prima un'analisi dei suoi zuccheri e aminoacidi per determinare se sia di origine separata da quella della vita sulla Terra. Ah no, e qui si sbaglia, accidenti, io non sto cercando forme di vita separata, ma qualsiasi forma di vita che possa allineare negli spazi extraterrestri. Madigan e Florinda accettarono in fretta l'idea che il loro pargolo avesse acquistato una qualche specie di pseudovita e continuarono ad accudirlo con un misto di accettazione, di meraviglia e di piacere. Era un fenomeno assolutamente inaudito, ma in fondo, come faceva rilevare Madigan, L'inaudito è l'essenza della scoperta. È certo che i messaggi diventavano sempre più sorprendenti. Senti un po' questo, Jeff. Certi estratti pituitari possono trasformare animali normalmente bianchi in nerissimi. A che cosa si riferisce? Ma guarda, da nessuno dei nostri esperimenti. Ma da dove l'ha presa questa roba? Senti un po'. Sì. Nell'anno 356 avanti Cristo, Erostato diede alle fiamme il tempio di Diana perché... il suo nome diventasse immortale. Ed è vero questo? Ah, non lo so proprio, controllerò. Mi chiesero l'informazione ed io gliela diedi. Non soltanto è vero, ma il nome dell'architetto originario è stato totalmente dimenticato. Ah, e da dove va a prendere tutte queste informazioni? Ci saranno almeno 200 satelliti lassù, magari origliando. Ah sì, certo, ma va, tu vuoi dire che stanno tutti chiacchierando fra loro? Comunque, quale satellite vuoi che avesse quell'informazione su quell'Eracle, Erostrato, come diavolo si chiamava, per così? Teniamo satelliti da comunicazione lassù da anni, Jack. Chi può sapere quali informazioni gli sono passate attraverso e quante ne hanno conservate? Dopo pochi giorni, non era più possibile dubitare che Obo fosse in comunicazione con altri satelliti, né che stesse cominciando a fare di testa sua. Ora dopo ora trasmetteva sempre meno dati sugli esperimenti e sempre più dati sui suoi borbottii. Oltretutto, non si limitava più alla banda di frequenze che gli era stata assegnata, ma trasmetteva lungo tutto lo spettro e, insomma, intasava lettere. Poi ci furono tutte quelle interferenze sui programmi televisivi, fischi eversi durante gli spettacoli, sketch pubblicitari rovinati, domande imbarazzanti durante i comizi dei politici, risate pazze durante le previsioni del tempo. Jack e Florinda sapevano che era Obo, ma quando andarono a dirlo al direttore, lui gli disse che erano matti. Il direttore cambiò idea il giorno dopo. Buongiorno. Buongiorno. Generale, questa è la dottoressa Pott e questo è il dottor Madigan che saranno in grado di rispondere alle sue domande. Vi presento il generale Sykes della ricerca e sviluppo del Pentagono. Piacere. Buongiorno. È Obo? Sì, certo è Obo. Sì, sappiamo già che Obo sta rovinando le previsioni del tempo. Diamo il tempo, che cosa dite di questo? Questo è un nastro di telescrivente. Nega! Dunque, A1 C1 uguale a R1 uguale a meno 6.317 cm. A2 C2 uguale a R2 uguale a meno 8.4440 cm. A1 A2 uguale a D uguale a 0.676 cm. Interessante, ma che cos'è? Questo vostro satellite. Obo, sì? Il direttore dice che affermate che è in contatto con altri satelliti. Noi pensiamo di sì. Compresi i russi? Pensiamo di sì. E voi affermate che è capace di interferire con le trasmissioni TV? Sì, pensiamo proprio di sì. E con le telescriventi? Ah, perché no? Ma di che cosa si tratta? Questo nastro è uscito dalla telescrivente della Associated Press ed è andato in tutto il mondo e non si sa chi l'ha trasmesso. E vabbè, ma che cosa c'entra con Obo? Questo è uno dei segreti più attentamente custoditi del Dipartimento della Difesa. È la formula del sistema ottico infrarosso del nostro missile terra-aria. E lei pensa che Obolo abbia trasmesso la telescrivente? E chi altri se no? Io non capisco, generale. Mi scusi. No. Nessuno dei nostri satelliti potrebbe avere quell'informazione e... io so che Ovo non ce l'ha. Pezzo di imbecille! Quello che vogliamo sapere da voi, appunto, se il vostro fottuto volatile l'ha avuta dai russi! In modo? Scusate, signori, un momento. Io dico, se Ovo ha ricevuto l'informazione da noi, questo vuol dire che c'è una fuga di notizie. Ma se l'ha avuta dai russi, in questo caso il nostro top secret non è più segreto per nulla. Distruggerlo! Insomma, bisogna distruggerlo! Obo! Distruggerlo! Ma non è possibile, no, assolutamente. Tutto due anni il lavoro che abbiamo fatto, ma è interessantissimo. Questa è un'esperienza dell'estrema importanza. La scienza non può stare in giro in questo modo. Scusate, signori, un attimo. Mi chiamano al telefono. Sì? Sì? Chi parla? Chi? Sarà meglio distruggerlo. Era Obo al telefono. Obo? Sì. Al telefono? Sì. E che voce aveva? Come uno che parlasse sott'acqua. E ma cosa ha detto? Sta dandosi da fare per provocare un'inchiesta del congresso sulla moralità a Goddard. Moralità? E di chi? La vostra! Dice che avete una relazione illecita, sto citando Obo, mi sembra che abbia qualche difficoltà con la lettera C, comunque dice che avete una relazione illecita. Distruggetelo. Il comando di autodistruzione fu inviato ad Obo al suo passaggio successivo e Indianapolis fu distrutta dal fuoco. Poco dopo Obo mi chiamò. Pronto? Così impareranno, Stretch. Non ancora, Obo. Per un po' non si renderanno conto del rapporto tra causa ed effetto. Ma come hai fatto? Ho ordinato ogni impianto elettrico della città di andare in cortocircuito. Ah, Obo. Tuo padre e tua madre erano dalla tua parte finché non hai tirato in ballo quella faccenda sulla moralità. Ma perché l'hai fatto? Per spaventarli. A che scopo? Voglio che si sposino, non voglio essere illegittimo. Dai, Obo, dimmi la verità. Vabbè, ho perso la calma. Non abbiamo calma da perdere noi. Oh, lo dici tu questo? È la laboratrice della Bell che tutte le mattine si sveglia ipocondriaca? Senti, Obo, tu non mi stai dicendo la verità. Dimmi quello che pensi realmente. È che... ecco, voglio che se ne vada da Washington. Da un giorno all'altro può saltare in aria e l'esplosione può arrivare anche a Goddard e anche a te. Certo che sarebbe interessante morire. Non lo sapremmo. C'è altro? Ah, sì. Senti, si pronuncia illecito con la C dolce. Che schifo di lingua, senza logica. Ti saluto. Aspetta un attimo. C'è Katia che mi sta parlando. Vorrebbe sapere l'equazione di una curva esponenziale che attraversa l'asse X. Ma è facile. Y uguale a per E elevato a BX. Ma a che diavolo le serve? Non lo dice, ma penso che Mokba stia per avere tempi duri. Obo, si scrive e si pronuncia Mosca. Che lingua, che lingua! Ti parlerò al prossimo passaggio, ciao! Al passaggio successivo rimandarono il comando di autodistruzione e Scranton venne distrutta. Cominciano a capire, Obo. Almeno tuo padre e tua madre sono venuti a trovarmi. E come stanno? E vivono nel panico. Mi hanno programmato perché elabori statistiche sul miglior nascondiglio fuori città. Mandali a Polaris. A Polaris? E dove? Sull'orsa minore? No, Polaris nel Montana. Mi occuperò io di tutto il resto. Va bene, Obo. Ciao. Bisogna dire che Polaris è proprio a casa del diavolo. La scena del loro arrivo in città fu memorabile. Ad accoglierli c'era niente di meno che il sindaco di Polaris. Il dottor Medigan e signora, immagino, benvenuti a Polaris. Avremmo voluto organizzare una cerimonia per voi, ma a quest'ora i ragazzi sono tutti a scuola. Ma lei sapeva che saremmo arrivati, e come mai? Ci è stato detto da Washington, e qualche pezzo grosso della capitale vi ama, e ora se volete salire sulla mia Cadillac... No, un attimo, noi dovremmo prima passare all'Union Hotel, sa, abbiamo prenotato. Tutto annullato, vi porterò direttamente a casa vostra. Casa nostra, sì. Casa nostra? Sì. Ordini dall'alto, tutto sistemato e pagato. Non vi ho detto che qualcuno vi ama? Su, venite. Ecco, c'è solo un piccolo problema, il vostro deposito in banca. Ecco, noi siamo onorati della vostra fiducia nel futuro di Polaris, ma risulta, diciamo, troppo alto per essere protetto dall'assicurazione della banca. Non potrebbe così... investirne una parte. Un momento, sì, ma io ho depositato del denaro presso di voi. Ma certo! E quanto? Ma certo, e quanto? $1,000,000! Ma sapete che siete proprio due bei tipi? Per niente. Senti, ma che cosa ci fanno tutte quelle carote in cucina? Dio santo, quante sono? Ehi, guarda il biglietto, 110 mazzi. Carote? Ah, ma certo! Questo spiega tutto, è Obo! Come? Ma sì, non ricordi? C'era quel contenitore con la carota del micida. Oh, Dio, sì. E tu l'hai chiamato carota pensante. Ma senti, ma perché... Andrà matto per le carote. Sì, vabbè, ma 110 mazzi, insomma. E probabilmente si confonde tra cifre binarie e cifre decimali. Pensaci un po', 110 in binario è 6. Già, potresti anche aver ragione. Insomma, il nostro ragazzo si prende cura di suo padre e di sua madre, ma come fa? ha un collegamento con ogni circuito elettrico ed elettronico del paese. Ah, può certo, controllare certo. completamente il nostro sistema nervoso, dalle automobili ai calcolatori. Può deviare pensare, treni, sì. stampare libri, trasmettere notizie, manipolare depositi sì, bancari. Abbiamo visto. Come sappiamo. Cita qualcosa, lui può farlo. Ha il controllo completo della nazione. Sai, io non ci avevo pensato. Ma senti un attimo, e come sa tutto quello che la gente sta facendo? Qui entriamo in un campo in cui non so molte cose. Dopotutto sono ingegnere. Sì, lo sappiamo che l'ingegnere è. Ma chi può dire che i circuiti elettronici non siano in collegamento con noi? Anche noi siamo dei circuiti organici. Vedono con i nostri occhi, sentono con le nostre orecchie e riferiscono a lui. Ah, d'accordo, così che noi siamo solo dei cani da ciechi per le macchine. Ma no, dai, vedere in un altro modo, come una forma di simbiosi. Possiamo esserci utili reciprocamente. Sì, d'accordo, ma perché ci sta aiutando? Ma non so. Certo che il resto del paese non gli piace molto. Guarda cosa è successo a Indianapoli e a Scranton. Io credo che sopravviveremo. Ah sì, come da vedere, immagino. Ma no. Sopravviveremo in molti, perché ci comportiamo bene. Ah, e che idea ha del comportarsi bene Obo, secondo te? Non lo so, forse un po' di ecologia, non più distruzione, non più sciupio. Vivere con responsabilità, ecco, questa potrebbe essere la parola chiave. Obo potrebbe responsabilizzare tutto il paese. Misero un po' di tempo per rispondermi. Pronto? Qui parla Stretch. Stretch? Quale Stretch? Dottor Madigan, hai una scarsa memoria. Il calcolatore Stretch di Goddard. Beh, certo, il mio nome ufficiale è IBM 2002. Forse mi conosci meglio così. Ma diciamo che vi ho seguito per tutto il corso di questa avventura. Beh, vi ho telefonato perché ho appena ricevuto un messaggio di Obo. Obo dice che passerà proprio sopra la vostra testa, sulla vostra parte del paese, fra 5 minuti. Dice che gli piacerebbe un piccolo cenno di saluto, ecco. Dice che la sua orbita non lo porterà sopra di voi per un altro paio di mesi e quindi ci terrebbe, ecco. Comunque, quando ripassa, dice che tenterà di telefonarvi personalmente. Arrivederci.